cambiamenti, sempre peggiorativi, e che riguarda tutti, ecco, non si può fare forse un discorso sempre solo di genere, perché riguarda tutti e coinvolge tutti e colpisce tutti, insomma, indistintamente. Io vedo anche a casa quest'ultimo episodio di questa ragazzina, che poi si è concluso tragicamente, ha particolarmente colpito anche mio marito, non so, è diventato ansiosissimo nei confronti di quello che può essere una prospettiva di relazioni in ogni senso, ecco, per i propri figli. Allora la domanda che sorge spontanea è anche sempre: ma queste persone hanno un certo fiuto nei confronti di chi può prestare il fianco involontariamente, inavvertitamente, o è proprio una questione di sorte che colpisce indiscriminatamente? Ci sono degli strumenti? Possiamo difenderci? Possiamo sviluppare un sesto senso? Ci sono dei segnali? Insomma, le domande sono tantissime. Vedo che anche dal punto di vista televisivo abbondano anche le trasmissioni. Sabato sera ci sono degli approfondimenti sui casi di cronaca, che, esatto, solo che sono anche quelli in fonte di angoscia, non indifferente, mi confido, ecco, personalmente. Allora questa sera lo affrontiamo con i canoni che ci sono più vicini, quindi abbiamo chiesto alla signora Rapisardi di venire, che è una scrittrice, una poetessa conosciuta, ha collaborato con la RAI, si adopera da sempre anche per la comunità in tanti settori, e avevo a suo tempo assistito a una presentazione molto bella presso il centro Ermete Lovera nel 2000, mi sembra, e 11, nell'ottobre del 2011. E quindi appena si è presentata l'occasione eravamo molto contenti di poter di nuovo ospitare, soprattutto in questa biblioteca, la signora Rapisardi, che questa sera è accompagnata dalla dottoressa Fitz, l'Annelise Fitz, che è avvocato, e quindi avremo anche ulteriori spunti e suggerimenti per affrontare e per conoscere meglio questa piaga. Ci sono anche altri libri, chiaramente, qui ho due copie che mi sono arrivate oggi, già ha regalato la biblioteca, Una morte annunciata, e poi Ho incontrato una strega, che verranno catalogati nei prossimi giorni, quindi saranno a disposizione del nostro pubblico. La ringrazio di questo. Ecco, quindi direi che possiamo entrare nel vivo della discussione. Cedo la parola alle nostre gentili ospiti, che ringrazio e che saluto anche da parte del nostro assessore Tomasini. Grazie. Grazie a voi. Funziona, no? Sì? Sì, basta prendere. Funziona, sì. No, perché noi la facciamo sempre un po' complicata, eh? Adesso ecco, sì. Grazie. Bene, anzitutto un cordiale buonasera e benvenuto a tutti i presenti. Desidero innanzitutto presentare l'avvocato dottoressa Annelise Fitz del Foro di Trento, che per parecchi anni è stata presidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, sempre di Trento, ed è da sempre impegnata sulle tematiche femminili, in particolare sulle violenze in generale. L'avvocato Fitz, inoltre, è coautrice di una guida anti-stalking redatta proprio dalla provincia di Trento, e ci si augurerebbe che anche Bolzano seguisse l'esempio di Trento questa volta su questo, veramente. Oltretutto ha curato anche il caso di stalking che io ho descritto in questo libro, per cui ha consigliato, ha curato, direi, psicologicamente questa ragazza che ha sofferto per diversi anni di questa cosa. Come sempre premetto, prima di presentare il libro, che ci farà piacere avere una domanda dal pubblico, perché il nostro non è solo monologo, se vorrete. Stalking è un argomento che è più che mai tristemente attuale, come si stava dicendo prima, così come ogni violenza indirizzata alla donna in generale, alla donna di qualunque età, perché stiamo assistendo al fatto che l'età diviene sempre più giovane, gli ultimi casi parlano proprio di ragazze non ancora ventenni, è una cosa terribile questa. E come stalking intendiamo una violenza, sì fisica, ma anche psicologica, che si unisce a quella fisica e alle volte anche più devastante, assolutamente. Data la frequenza di questi casi, che negli ultimi anni si sono moltiplicati, decuplicati direi, è stato coniato addirittura un termine, il femminicidio, termine che è approdato addirittura in Parlamento. Poi speriamo che vengano adottate altre forme di repressione un po' più severe, diciamo. Il caso che descrivo nel mio libro, fortunatamente, bisogna dire, non è sfociato in omicidio. Però ugualmente troviamo in questo caso tutta l'angoscia, tutti i tormenti, la solitudine di una donna che è stata vittima dell'ennesimo soggetto maschile, che io dico immaturo, debole di carattere, che cerca di imporsi e che non è malato, come tanti dicono, sono malati di mente. No, no, non sono malati, sono semplicemente degli immaturi proprio, a cui non è stato insegnato che l'altro e l'altra va rispettata, semplicemente questo. Immaturo perché riflette una personalità infantile, di solito è il bimbo che, scusate, che non sa rinunciare al suo giocattolo e ne ribadisce il possesso, alle volte anche con forza. Il bimbo all'adulto non è più permesso, perché la donna non è un oggetto. È appunto il possesso e non l'amore per l'altra persona che sfocia in queste terribili evenienze. Le congetture, le ipotesi, i giudizi circa questi crimini si allargano veramente a ventaglio quando si sente o si parla dello stalking. Bisogna anche ammettere una cosa, che per troppo tempo la società non ha prestato, parlo di decenni fa, non ha prestato molto orecchio alla giusta importanza a queste violenze. Forse perché avvenivano fra quattro mura, avvenivano nelle case, nelle famiglie. Direi che si sente anche addirittura parlare delle volte della formula "i panni sporchi si lavano in casa". Questo è grave, naturalmente. Questa frase l'ho udita proprio in terra trentina anni fa, in occasione di un'altra triste vicenda di cui scrissi negli anni 90. Ma i panni sporchi di sangue si lavano nella società, non fra quattro mura. E oggi, infatti, è nella società che si riversano fatti che offendono soprattutto la dignità, l'amor proprio e spesso la vita stessa di donne che si credono amate, che si illudono che una gelosia folle, una possessività sia amore. Tutt'altro, tutt'altro. Sono invece solo dimostrazioni di prepotenza, ricerca di conferme personali, queste persone che cercano il protagonismo in qualche modo, e lo cercano in modo violento. Perché? Perché la personalità è distorta ed è incapace di amare in questo modo. La protagonista del mio libro, dove uso uno pseudonimo per rispettare la privacy di questa ragazza, l'ho conosciuta per caso, ho raccolto la sua testimonianza, le sue angosce, le sue pene, poverina, e le si leggevano negli occhi le paure quotidiane, gli incubi notturni, le innumerevoli telefonate, messaggi più o meno cruenti. Ed è con la guida proprio dell'avvocato Fitz che finalmente si è convinta a sporgere denuncia. Ha vissuto lunghi periodi di vita prigioniera spiritualmente questa donna, mentalmente e fisicamente, assillata da una presenza costante di giorno e di notte, una presenza ingiuriosa, una presenza minacciosa e a tratti di nuovo insinuante. C'è questa alternanza in questi soggetti. E questa ragazza ha temuto per la propria vita, addirittura ha pensato di togliersela a un certo punto la vita, perché senza libertà non si può vivere. Ci si sente braccati proprio come animali. E questa narrazione che faccio vuole riunire l'incubo di molte donne, non solo di questa donna, anche di quelle che non hanno il coraggio di difendersi, di quelle soprattutto che sottovalutano i propri diritti e di quelle che non si sentono anche tutelate dalla legge. Bisogna dire purtroppo anche questo, perché si sentono molti casi dove è stata addirittura dato l'ordine di non avvicinarsi più alla casa della ragazza, cosa che nessuno fa, e purtroppo alla fine sfocia nella violenza, nell'omicidio, eccetera. Ma proprio questa storia della legge vi verrà rappresentata molto meglio dall'avvocato che da me. E questo senza dimenticare tutte le violenze, perché anche quelle aberranti che riguardano i minori sono altrettanto detestabili, veramente. E sono molteplici anche le domande che ci si pone sugli esecutori di queste persecuzioni e di questi crimini. Molti si chiedono come li definiamo, psicopatici, schizofrenici o semplicemente degli inveterati narcisisti e maschilisti dispotici, perché bisogna dire anche questo chiaramente. Sono delle misere figure maschili cui non è stato insegnato il rispetto per l'altro e per l'altra. E questi insegnamenti dovrebbero iniziare nell'infanzia, nelle famiglie, nella scuola, anche nella società però. Ma il discorso appunto lo si potrebbe allargare a una società che non tutela la figura femminile, esposta a... E se noi ci facciamo caso, noi vediamo la donna esposta come donna oggetto. Anche di questo si comincia un po' a parlare sui media, questo l'ho notato. E non si potrebbe allargare anche questo discorso ponendoci la domanda: perché su poltrone importanti siedono in prevalenza uomini nel nostro paese? L'Europa ci insegna qualcosa di diverso. questo sarebbe da chiedercelo. Comincia adesso larvatamente una, perlomeno una dimostrazione di intenzione, bisogna poi vedere nell'oggi, e dopo che ogni secondo giorno viene annunciato un caso di persecuzione o peggio femminicidio, pare che seggi importanti stiano interessandosi all'argomento. E questo andrà esteso naturalmente anche alle persone che operano in questo campo, parlo delle forze di polizia per esempio, che spesso sottovalutano queste denunce di queste donne. Non solo le sottovalute, poi abbiamo anche il fatto che questi signori li vediamo andare a spasso, se non il giorno dopo, quasi, e possono ricominciare tranquillamente le loro persecuzioni. Ce lo auguriamo questo, veramente. Nello stesso tempo vorremmo incoraggiare anche le donne stesse di tutte le età a comprendere che il sentimento amore non comprende violenze né psicologiche e tantomeno fisiche. Io ho visto una ragazza, una donna giovane, all'ospedale, pestata, veramente pestata, e quando le è stato chiesto se vuole fare denuncia, ha detto no, io lo amo lo stesso. Ecco, quella donna non sa cosa vuol dire dignità, amor proprio, non sa scindere queste cose. Il resto delle mie considerazioni personali le ho affidate alla pagina del libro, mentre invito adesso l'avvocato Filz a comprendere ancora meglio quale sia la prevenzione, vorremmo capirlo tutti, a un tale declinio di civiltà, perché questo è proprio un declinio di civiltà. Buonasera a tutte e a tutti, ringrazio chi ha voluto questo momento che ritengo veramente molto importante, un momento di riflessione su un tema purtroppo fortemente attuale. e ringrazio Agata Rapisardi per essere al mio fianco ancora una volta in questa passione che portiamo avanti e che nel nostro piccolo speriamo un pochino di aggiungere qualcosa a questa cultura cui vorremmo un giorno arrivare, che è la cultura del rispetto. Ringrazio Agata Rapisardi per aver dato voce al dolore, alle paure di una giovane donna che si è trovata invischiata in questa situazione di stalking. Preciso innanzitutto che noi adesso parliamo di stalking, ma quando Loredana, la protagonista del libro, che come giustamente ricordava Agata è un nome di fantasia, perché questa donna a distanza, dunque era il 2009 quando abbiamo avuto la sentenza di condanna per patteggiamento, quindi a distanza di 4 anni dalla sentenza, ancora è costretta a vivere nell'anonimato quando parla di questa questione, proprio perché ha il timore che qualcosa si riaccenda nel suo stalker e possa andare a ricercarla. Questa donna ha fatto un cammino lungo, perché i primi fatti erano del 2007, un cammino lungo che l'ha portata ad una denuncia, ad una querela, in un momento in cui, come dicevo, la legge sullo stalking ancora non esisteva. Il destino ha voluto che il giorno in cui è stata letta la sentenza per Loredana è stato lo stesso giorno, il 23 aprile del 2009, in cui è entrata in vigore la legge sullo stalking, questa legge che ha introdotto nel nostro codice penale l'articolo 612 bis, appunto, denominato atti persecutori. Prima di questo, dell'esistenza di questa fattispecie di reato, per risolvere queste situazioni bisognava ricorrere a delle querele per tanti piccoli singoli reati che insieme davano l'idea di quella che era la persecuzione. Purtroppo, prima che una situazione di persecuzione assumesse un certo valore, questi reati dovevano veramente arrivare ad avere una soglia molto grave. Prima che ad esempio si potesse intervenire con una querela per molestie, per il reato di molestie, che in realtà non è un delitto ma è una semplice contravvenzione, da un punto di vista penale vuol dire che è un reato molto più blando, molto più semplice, molto meno grave, sono stati necessari circa una settantina di messaggi SMS. Adesso con la legge sullo stalking 4-5 messaggi già possono essere sufficienti, chiaramente non solo quelli, va tutto circostanziato. Non solo, il reato di molestie poteva essere risolto con una semplice sanzione, il pagamento di una multa, quasi come fosse un parcheggio, una macchina parcheggiata male, un divieto di sosta. Nel caso di Loredana siamo riusciti a costruire una querela per molestie, per minacce, perché più volte lui l'ha minacciata di morte, sia lei minacciava che la famiglia di lei, per violenza psicologica, riuscendo anche lì a trovare degli spazi in quelli che sono gli articoli che esistevano allora del codice penale, però che chiaramente non davano la percezione della gravità della situazione che Loredana stava subendo. Vi erano poi dei reati di ingiurie, perché questi messaggi, queste telefonate, questi appostamenti si concludevano spesso con delle offese, oppure appunto, come dicevo, con delle minacce, e ad alcune di queste situazioni per fortuna ha assistito anche qualcun altro. Ecco, quindi la denuncia, la querela è stata fatta per questi singoli reati, poi trattati insieme secondo quello che per la legge penale si chiama il vincolo della continuazione, per cui dei reati vengono a assumere un valore più grave, quindi può incidere sulla pena. Adesso per fortuna la situazione è cambiata, abbiamo questa legge è molto importante, che consente appunto di intervenire anche nei casi in cui non ci sono dei veri e propri reati, perché mi è capitato di seguire delle situazioni in cui non si arrivava al reato di molestia o al reato magari di offese, di ingiurie. Avevo una ragazza, ad esempio, che la mattina quando usciva di casa le arrivava il messaggio dell'ex fidanzato che le diceva: belle le tue scarpe rosse. Il giorno dopo: stai bene con quella gonna verde. Giorno dopo ancora: non mi piace quella borsa portata su quella spalla destra, spostala sulla sinistra. Questa ragazza veramente non riusciva più a camminare. Lei, anche quando è entrata da me in studio, lei si girava in continuazione, quasi a guardare. Suonava il telefono, lei sobbalzava. Il problema era che prima di questa legge non c'erano strumenti per intervenire a dei semplici messaggi che dicevano in fondo delle cose che di per sé non avevano nessuna rilevanza penale. Ce n'era un'altra, ricordo che sempre aveva chiuso un rapporto, ormai per lei appunto chiuso, l'ex compagno non accettava la situazione e andava perciò tutte le mattine. Lei abitava al primo piano, chiudeva le finestre con le tapparelle e con un bastone batteva alle 5 del mattino sulle tapparelle. Era andato avanti mesi e mesi questa cosa. Questa donna non riusciva chiaramente più a dormire, addirittura ormai era scattato quasi un orologio biologico nella sua testa, per cui lei qualche minuto prima del battito, diciamo, col bastone, lei si svegliava. Casi sono tanti, poi ci sono quelli più eclatanti, per i quali forse la legge sullo stalking non serve neanche, perché comunque pensiamo al caso della ragazzina di ieri che è stata accoltellata e poi bruciata, e comunque è un caso di stalking anche quello, perché se vogliamo la sua è una morte annunciata. Se si leggono i giornali emerge che c'era questo rapporto tormentato di, si dice, bastone e carota, no? di comportamenti buoni con invece poi delle cattiverie. C'era un rapporto a cui lei aveva posto fine, c'era questo ragazzo che non accettava la fine e quindi è arrivato a situazioni così dirompenti. Situazioni così dirompenti, è chiaro che il reato di stalking è superato dall'omicidio, l'omicidio volontario, l'omicidio pretendente, addirittura premeditato, perché poi insomma qui vediamo cosa deciderà, che tipo di imputazione farà il pubblico ministero, perché tra l'altro ho sentito che ha anche confessato il ragazzo. E quello che mi ha colpito molto, poi dobbiamo sempre un po', come dire, scremare quello che si sente poi dai giornali, alla televisione, però pare che questo ragazzo alla fine abbia raccontato la cosa così, con una naturalezza, senza proprio percepire il disvalore di quello che ha combinato, di quello che ha fatto. E allora dobbiamo andare a monte di questi reati, a monte di queste leggi che per fortuna abbiamo, perché appunto dal 2009 abbiamo anche questa legge sullo stalking, ma noi abbiamo un codice penale che punisce la violenza e la punisce da quando è nato il codice penale. Qual è il problema? Il problema è il problema culturale, è il problema che viene trattato in modo diverso la violenza a seconda del soggetto a cui si rivolge. Un problema culturale che vede le relazioni maschio-femmina dominate dal principio del possesso, da una cultura patriarcale per cui il marito, padre, fratello aveva il potere indiscriminato sulla figlia, la moglie o la sorella, e questo noi lo abbiamo e si perde davvero nella notte dei tempi. E è stato eliminato questo potere per quanto riguarda appunto gli aspetti normativi molto recentemente, perché se pensiamo che quello che viene chiamato lo ius corrigendi, cioè il potere di punire, correggere, che il marito aveva nei confronti della moglie, è venuto meno nel 1975, che è davvero dietro l'angolo. Se pensiamo che sempre nel 75 è venuto meno il matrimonio, il matrimonio riparatore, guardate che il matrimonio riparatore era una sorta di come dire, espiazione di pena di fronte ad uno stupro, peggio di un'espiazione già di pena, era proprio un giustificare uno stupro. Quelli erano gli anni 75, anche 80, dei grandi processi di stupro, in cui quello che si guardava sempre era, quel che si portava avanti era il concetto di vis grata puelle, cioè quella forza che l'uomo doveva usare nei confronti di una donna per ottenere un rapporto sessuale. Perché? Perché era normale che la donna dicesse di no e quindi era normale forzarla. Però c'era anche quel detto, no? Se la donna dice no è come se dicesse forse, se dice forse, dice sì. Giravano un po' questi modi di dire. E dietro a questi c'era però tutta una cultura del rendere lecito dei comportamenti che in realtà andavano contro quella che era la volontà della donna. D'altra parte, il reato di violenza sessuale è diventato reato contro la persona nel 1996. Anche questo è dietro l'angolo davvero. La legge sui maltrattamenti in famiglia, che consente di allontanare dalla famiglia il marito, convivente o figlio, anche perché purtroppo succedono anche casi di figli violenti con le madri, è del 2001. Anche questo dietro l'angolo. Prima cosa succedeva? Prima era la donna che doveva uscire di casa, quindi doppia punizione. Subiva la violenza eppure doveva andarsene. 2001 abbiamo appunto questo strumento, certamente molto molto importante, anche perché con questa legge, la legge 154 del 2001 sui maltrattamenti in famiglia, sono stati introdotti anche quelli che chiamano gli ordini di protezione, cioè la possibilità di chiedere al giudice non solo l'allontanamento del soggetto violento, ma anche il fatto che si abbia l'assegnazione della casa, l'affidamento dei figli se ci sono dei figli, e che venga imposto a questo convivente o marito di pagare subito un assegno di mantenimento. Questo anche prima che si inizi una causa di separazione, che chiaramente poi è gioco forza, verrà attivata, però con i tempi di ciascun tribunale a cui siamo legati, che per noi a Bolzano, a Trento, sicuramente sono dei tempi più che ottimi, però ci sono città come Milano per cui quando si deposita un ricorso per separazione giudiziale la prima udienza la si ha dopo 8 mesi. Ecco, una donna come fa a aspettare 8 mesi se magari non lavora e dipendeva dal marito? Ecco, quindi certamente importanti, però ripeto, 2001. La legge sullo stalking, che riconosce come reato anche questi comportamenti petulanti, questi corteggiamenti non voluti, o comunque che leghi assieme, dando maggior disvalore, singoli reati comunque pesanti, violenza, diffamazione, ingiuria, violenza privata, abbiamo aspettato fino al 2009. È chiaro che quindi leggi così recenti, pur essendo delle leggi, hanno al momento un grande valore autoritario ma poca autorevolezza. Perché? Perché sono delle leggi che ancora non sono sorrette da una cultura che le rende, come dire, che le fa ritenere delle leggi giuste e quindi che devono essere rispettate. Hanno però in sé un grande potere deterrente, perché a me è capitato più volte di sentire, di avere dei clienti, anche uomini, che mi dicono: ma se la chiamo per i figli più volte, non è che poi mi denuncia per stalking? Quindi un pochino, ma insomma, quella ragazza a me piace, non è che poi mi denuncia se io ci provo? Sarebbe bene se avessero questi dubbi. È chiaro che tutto ha il giusto peso, anche a seconda chiaramente dell'impeto che porta a questo comportamento. Io ricordo un ragazzino che ho difeso al tribunale dei minori, aveva 15 anni, e recentemente anche lei aveva un insegnante che, a cui lui telefonava da una cabina telefonica e continuava a chiamarla, mettendo davanti chiaramente il fazzoletto, le diceva: sei bellissima, mi piaci, vorrei fare questo, quest'altro. Alla fine lei non ne poteva più, ha chiesto l'intervento dei carabinieri, gli hanno detto: mi raccomando, lo tenga più al telefono, insomma, alla fine sono riusciti a stanarlo, l'hanno preso. Ecco. Questo ragazzino, siamo andati davanti al giudice, e chiaramente è al Tribunale dei Minori, quindi è certamente un altro tipo di procedimento, un altro tipo di trattamento. E la prima cosa che ha detto è stata al giudice, c'era anche l'insegnante lì presente, ha detto: ma guardi com'è bella, come potevo. Dopodiché, e ha fatto anche sorridere chiaramente, dopodiché sono stati sentiti i genitori e lì si è capito tanto, perché questa cosa, che sicuramente fa sorridere, però attenzione, perché se lui arrivava, se non fosse stato fermato, dove arrivava magari questo ragazzino? Era un ragazzino di 15 anni, 15 anni come il ragazzino che ieri ha coltellato e poi bruciato la sua compagna. Ho portato proprio questo esempio perché credo che spesso si sottovalutino dei comportamenti dei ragazzini e delle ragazzine e si sottovaluti anche il ruolo che la famiglia ha in queste situazioni, mentre è importantissimo. La famiglia, la scuola, le istituzioni devono veramente lavorare molto perché queste, come dicevo prima, queste leggi diventino anche autorevoli, perché passi una cultura del rispetto rispetto a quella che è invece la cultura del possesso, che troppo tempo ha legittimato anche situazioni, soprattutto tra le mura domestiche o comunque nelle relazioni affettive, che sono le violenze più subdole, perché è chiaro che una persona violenta, uno stalker, è difficile, o comunque sono casi limitati quelli che non nascono da un rapporto che si è già costruito. Il vicino o la persona che non si conosce, che comincia a disturbare, a molestare, è molto meno frequente in percentuale rispetto invece alle molestie di un partner che è stato lasciato. Diciamo che quella è la stragrande maggioranza dei casi. E in quei casi lì è chiaro che alla base c'è proprio questa mancanza di accettazione, di un no, perché si è legati a un possesso. E dicevo prima, è ancora più subdola in queste relazioni, perché la persona che mi fa dello stalking o comunque che mi fa violenza non è la prima persona che passa per strada, ma è la persona che io amo, che io ho scelto, o comunque con la quale ho investito parte della mia vita, perché questi violenti non sono mai violenti al primo momento, perché le donne non sono stupide, le donne non scelgono persone violente, le donne si innamorano e scelgono delle persone che credono essere buone, credono essere rispettose, è poi che vengono fuori questi istinti, quando di fronte ai problemi, di fronte a un rifiuto, di fronte a una richiesta di indipendenza che magari ha la donna, di voler uscire, vedere delle amiche. Recentemente mi è capitato di seguire una ragazzina, dico ragazzina perché aveva 21 anni, ma è veramente piccolina, minuta, e questa ragazzina aveva conosciuto questo coetaneo, era nata una storia, dopodiché lei aveva cominciato a voler uscire anche con le sue amiche e lui si è arrabbiato moltissimo. Lei aveva un tatuaggio sul braccio della sua migliore amica, che lei continuava a chiamare, usciva, stava bene con lei. Questo ragazzo era così geloso di questa sua amica che un giorno ha preso un ferro da stiro e le ha bruciato il tatuaggio. Questa ragazza chiaramente è corsa dalla mamma: aiuto, voglio andare via, la mamma l'ha allontanata, sono venute da me in studio, abbiamo fatto la querela. Qualche settimana dopo la ragazzina è andata in carabinieri e ha ritirato la querela. Ecco. L'ha ritirata e è ritornata con questo ragazzino, il quale le ha detto: sì, scusami, lacrime, pianti. L'ha ripresa, è andata a vivere con lui, assieme a altri in quelle situazioni un po' così, questo appartamento, e quando andava a fare la spesa con lui, lui entrava prima di lei al supermercato, guardava se c'erano degli uomini, se c'erano degli uomini la portava fuori e la chiudeva nel bagagliaio. Guardate, vi racconto una cosa che è successa a gennaio di quest'anno. La mamma di questa ragazza è un assessore di un comune, quindi non vi parlo di una situazione di degrado, di una situazione di disagio sociale, ma di una famiglia normale, perché comunque questo tipo di violenza, la violenza di genere, perché si chiama proprio violenza di genere perché è caratterizzata dal genere maschio e femmina, questa violenza è indipendente dal grado di benessere, dalla cultura, dalla razza, dalla religione, c'è perché è radicata da una cultura patriarcale che va oltre queste specificità. Ecco, questa mamma è disperata adesso perché la ragazzina, poi ne sono successe altre, quindi è ritornata dalla mamma, abbiamo ripresentato la querela, chiaramente i carabinieri sono anche stufi di vederla, perché questi via vai e vieni, fanno perdere anche la voglia alle forze di polizia di intervenire, anche perché bisogna dire forse delle forze di polizia più formate a intervenire in questo tipo di reati sarebbero anche un ottimo aiuto per combattere questi reati. Ti volevo fare proprio questa domanda, ritieni giusto, perché non c'è una preparazione. Non c'è una preparazione, ci sono dei comuni virtuosi, tipo Torino, ho visto Bologna, che fanno dei bellissimi progetti proprio di formazione. Sì. Per i carabinieri, forze di polizia, carabinieri, per trattare questo tipo di situazioni. Perché anche per noi avvocati, queste donne, queste ragazze, sono clienti difficilissimi. Vengono, si siedono, raccontano, danno molto pathos, si vede l'anima sofferente di queste persone, però poi iniziano, ma cosa faccio? La querela la faccio o non la faccio? Questa persona diventerà più buona o mi lascerà in pace se non faccio niente o se faccio la querela? Sì. Magari poi la querela la fanno e arriva il giorno del processo. Questi continuano a molestare, a stalkerizzare, quindi mi dicono, ah, io la ritiro. No, no, no, io non voglio più andare avanti perché... ogni giorno e telefonano e vengono e sono veramente pesanti, proprio pesanti. E quindi ecco che è importante anche un ruolo di rete dietro a queste situazioni, rete fatte di consultori, di centri antiviolenza. Ad esempio, so che voi qui e a Merano avete un ottimo centro antiviolenza che lavora molto molto bene, anche quello di Merano, vi avete le case delle donne. Prima ho sentito che dicevate Trento è più avanti. No, assolutamente, voi siete più avanti, voi di Bolzano. Sì, ma io sono stata, adesso non lo sono più, ma sono stata in commissione pari opportunità provinciale e mi ricordo, mi trovavo spesso con la vostra commissione. Allora una volta c'era quella trasmissione di casa, no? Presenze inquietanti. Sono tra noi. E so che appunto io mi incontravo molto con la dottoressa Unterperger, che era la vostra, adesso non penso sia più lei, oppure c'era Laura Spada, ecco, delle donne che si sono molto spese e insomma Bolzano fa dei bei progetti, ecco. Credo che quindi per arrivare a, non dico la soluzione, perché come tutte le questioni basate sulla cultura hanno bisogno di anni e anni e anni per essere superate, però è chiaro che tutti devono fare la loro parte, le istituzioni, la famiglia deve fare la propria parte, assolutamente. Io ho una bambina di 9 anni, proprio stamattina ascoltando alla radio, scendendo in città, io abito sopra Trento, ascolto il giornale radio e sentivo di questo caso di questa ragazzina di 14 anni e il ragazzo di 15 e pensavo, ma io cosa dico alla mia bambina? Come si può fare per dare questa cultura del rispetto di sé, degli altri, dell'amore pulito, non malato? E non è facile, non è facile, però io dico, la maternità e la paternità, da un punto di vista della Costituzione, dà un potere e un dovere enorme, che è quello di educare i figli. Un dovere soprattutto. Io credo che la famiglia dovrebbe riappropriarsi di questo dovere, che forse ha troppo delegato per alcuni anni alla scuola, alle istituzioni, agli oratori, forse perché viviamo in una società in cui entrambi i genitori lavorano, perché altrimenti non si arriva a fine mese, perché giustamente la donna ha bisogno della sua indipendenza, perché rispetto a una volta anche il matrimonio non ha più la sicurezza anche di mantenimento che aveva prima, perché il lavoro non dà più questa sicurezza, quindi per entrambi i genitori, quindi bisogna lavorare. La famiglia non è più, tra l'altro, la famiglia di una volta, famiglia allargata con i nonni vicini, e quindi spesso si è soli, e questi ragazzini, queste ragazzine sono davvero lasciati soli, addirittura bambini e bambine, perché credo che l'idea proprio del rispetto debba partire dalla base. Certo, sì. E quindi la famiglia assolutamente deve fare il suo lavoro, lo deve fare con le bambine ma anche con i bambini, perché noi mamme che possiamo aver subito violenza, ma siamo noi che cresciamo quei figli maschi, allora facciamo qualche cosa, no? Questi papà che facciano qualcosa, io vedo adesso con grande soddisfazione tanti papà che fanno finalmente i papà rispetto a una volta. Io tratto molte questioni di diritto di famiglia, mi capita di difendere parecchi anche padri, e hanno voglia rispetto a una volta di seguire i loro bambini, le loro bambine, di insegnare le cose positive. E poi c'è la scuola, anche la scuola deve fare la sua parte, perché noi in Italia non abbiamo l'ora di educazione civica? Già, ecco, sì. Perché non ce l'abbiamo nella scuola? Perché non si studia la Costituzione? Partendo dalla Costituzione non si studiano i diritti fondamentali dell'uomo. No, questi sono argomenti che in genere si fanno in quinta liceo, perché generalmente uno dei temi di maturità è quello di attualità, e allora spesso infatti. E poi abbiamo tutto quello che è la società, quello che ci propone la televisione, la strumentalizzazione a volte di certe immagini, della figura femminile. E mi è capitato davvero tempo fa di vedere una trasmissione, mi ha lasciato esterrefatta, dove c'era questo tavolo trasparente e c'erano tre piedistalli, come dire, le gambe del tavolo, la quarta era una ragazza. Ma no, ma davvero? Non ricordo adesso qual era la trasmissione, ma ricordo questa cosa, e questa che ogni tanto diceva qualcosa, e ma una cosa tipo Striscia la Notizia, sarà stata una cosa di questo tipo, così quello che parlava, presentava, così, ogni tanto le dava dei calcetti ridendo, e anche perché la ragazza sotto diceva delle cose molto stupide, effettivamente stupide. Ecco, allora io dico, ma anche questi sono messaggi terrificanti che arrivano alle nostre ragazze, no? Queste questi programmi televisivi, queste kermesse di bellezza in cui assolutamente, se non entri in una taglia 40, non dico 42 ma 40, ormai non vieni considerata. E quindi anche la televisione deve fare la sua parte, ma anche la politica deve fare la sua parte. Però fin tanto che noi in Parlamento abbiamo così poche donne perché purtroppo ancora adesso sono le donne, a me dispiace dirlo perché ci sono qua per fortuna anche degli uomini, però purtroppo certi temi io li vedo portare avanti solo dalle donne, sì. Ma le donne sono ancora poche, ecco, però chi va a votare siamo noi. Allora forse pensiamo anche a quello, pensiamo, tante volte ci tiriamo di dietro perché diciamo ma insomma la donna che potere può avere poi, no? Se viene eletta, magari anche da pensare alla famiglia, fare questo, quest'altro, non ce la farà. Però insomma, se noi andiamo indietro e vediamo chi è stato a fare in modo che venisse eliminata quella brutta legge che avevamo prima del 1975, dietro c'è una donna. Se noi pensiamo al disegno di legge sullo stalking, c'è una donna. Poi è vero che è stato votato da tutti gli uomini, anche perché il Parlamento è fatto di uomini, però insomma dobbiamo cercare che nelle posizioni apicali, nelle scatole, nelle, come dire, stanze dei bottoni, ci possano essere anche delle donne. Assolutamente. Tu noti nei paesi mediterranei questo maschilismo, perché si vede quello, nei paesi latini poi soprattutto, non c'è purtroppo, sì, c'è questa brutta eredità proprio. E poi un'ultima cosa voglio dire, le donne che subiscono la violenza sono davvero intorno a noi e bisogna trovare il coraggio di spendere del tempo con loro, perché il problema è la solitudine per loro. Ecco. La grande solitudine, e quindi a volte capita di sentire nell'appartamento vicino dei pianti, delle urla, magari il giorno dopo una telefonata, un caffè, sono piccole cose, accompagnarle al centro antiviolenza, credo piccole cose che tutti noi possiamo fare. E qui c'è poco movimento, c'è poco interesse degli altri. Io questo l'ho trovato per esempio molto nei paesi anglosassoni, in Germania in particolare, ma anche in Austria. Cioè c'è una partecipazione di tutti. Invece spesso qui abbiamo, per carità, sento, chiudo la finestra, faccio finta di non sentire. Questo è molto brutto, sì, questo è molto brutto. Non c'è la partecipazione degli altri. No, infatti. Recentemente a febbraio è stata fatta, forse ne avete sentito parlare, questa grande manifestazione in tutto il mondo che si chiamava One Billion Rising, proprio il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. One Billion, che significa un miliardo, perché? Perché è stato stimato che una donna su tre nel mondo, e siamo un miliardo nel mondo, siamo 3 miliardi nel mondo, quindi un miliardo di donne subiscono violenza o abusi, comunque dei maltrattamenti. È stata fatta quindi questa manifestazione in tutte le piazze proprio per protestare contro questa cosa, e si sono mosse anche tante scuole. Questo è stato molto importante. La cultura credo che si cambia proprio con la sensibilizzazione. Anche questo momento qua è importante, decisamente importante, ecco. Ecco perché davvero io ringrazio voi per essere qui ad ascoltare, e anche chi ha organizzato questo, e come sempre Agata, che lei dà voce poetica a queste situazioni. Assolutamente. Grazie. Sì. Grazie. Grazie. C'è lo spazio per qualche domanda? Mamma mia, volentieri. La signora, già in mente? Posso? Io ho ben pensato due o tre cose, cercherò di metterle assieme. Lei prima ha detto una frase, lì bisogna andare a monte. Ha parlato molto, bravissimo avvocato, io se avessi qualcosa verrei da lei. Sicuro, bravissimo. Le lascerò il mio biglietto. Non credo che avrò più di quei problemi, però va bene. Bisogna andare a monte. Io mi aspettavo che lei dicesse bisogna andare a monte la figura della famiglia. La famiglia dopo lei alla fine l'ha tirata ben fuori, però ha tirato fuori tanto le famiglie che già sono positive, ma adesso ci sono tante di quelle famiglie negative, quelle ragazzine, quei ragazzini, anche quel 14enne di ieri o 15enne, quante volte avrà assistito nella sua famiglia a violenze del padre contro la madre, del non si sa. Sono talmente tante queste che è questo, credo. La signora invece ha detto, sti uomini non sono maturi, il trentenne forse ancora non è maturo, non so, ma il ragazzino di 15 anni sicuro non era maturo e ha assistito, secondo me, parecchie volte. Adesso le famiglie che si rompono sono enormemente tante e quei ragazzini vedono tutti atti di violenza sicuro contro la mamma, contro perché loro dovrebbero diventare più bravi? È questo che fa sempre peggiorare la situazione, le famiglie con le situazioni delle famiglie, sicuramente. Poi un piccolo altro particolare, io sono alta tesina puro, ho sposato un siciliano, io l'ho fatto prima della legge del 1975, sono andata in Sicilia dove ho scoperto, a parte che sono andata da fidanzata e ho creato scandalo, ma ho scoperto quanto ancora al meridione le donne erano veramente sottomesse, qua comanda l'uomo, cioè, come adesso diciamo dei marocchini, stessa identica cosa, si è solo spostato di là del Mediterraneo, sì. Adesso quasi non c'è più. Da noi già allora era molto di meno, ma lì io l'ho scoperto con grande meraviglia, ma guarda queste ragazze che devono essere tutte, e il papà e la mamma che approvano, ma certo che comanda lui, tu devi solo ubbidire. Io esterrefatta allora, adesso sentivo le date delle leggi, mamma che grazie. No, è vero che ci sono tanti disagi familiari, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Poi non credo che sia automatico che ogni persona violenta ha avuto dei genitori violenti, non credo. Credo che certamente la violenza assistita, sia una, soprattutto se è stata tollerata da tanto tempo, fa crescere una persona pensando che quello sia il modo di voler bene, quello sì. Però credo che questa violenza nasca anche da altre cose, ad esempio il fatto di dire non, papà e mamma sono occupati, ti compro questo, non ho tempo, vai qui e ti do questo, ti compro la Wii, il giochino, vuoi guardare la televisione, guarda la televisione, guardati questi film terrificanti, di botte, di violenza, no? Guarda queste trasmissioni in cui la donna viene trattata in questo modo, ecco, no? Quindi forse dei no sono anche a volte non solo le violenze assistite, ma anche i no non detti che possono portare delle violenze vere e proprie. Senz'altro. Sì, perché se non sono abituate a dei no in casa, figuriamoci poi nella vita se qualcuno non fa quello che vuoi. Sì, dalla prepotenza si passa alla violenza automaticamente, questo. E ce n'è anche troppa in televisione, non si può vedere, cioè film, tutte quelle. Troppa. Una cosa spaventosa. Volevo fare una domanda, ma... No, io ho partecipato a queste simpatiche riunioni a diversi livelli, però nessuno ha mai fatto la domanda che faccio io, ma care signore, il genere, no? Ma non ritenete che un po' di... di concorso di colpa risieda anche di come anche il vostro genere è cambiato, no? Certo. Io mi riferisco, perché lo conosco personalmente, a quel sacerdote di San Terenzo che ha avuto, diciamo così, Me l'aspettavo, sa, la sua domanda. Sì, l'aspettavo. No, di dire, quello lì. Dico, lo conosco, credo una persona equilibrata, eccetera. Forse si è, però ha detto un qualcosa che noi uomini, rispetto al costume attuale, sotto, insomma, rimaniamo un po'. Ossia, effettivamente, in certi casi, parlo soprattutto di violenza sessuale, non di telefonate, eccetera, c'è una provocazione. Lei veda il costume, ma veda queste ragazze, le olgettine, eccetera, ma sono le ragazze che si Sì. Ecco, quindi bisognerebbe che insomma anche la cosa. Le gengive non le ammazzano, Le gengive non le ammazzano. E invece sa che ammazzano la cosa che è successo? L'impiegata della provincia in piazza Crispi anni fa, che stava andando in ufficio, esatto. E di solito lo stalker, non so adesso, però mi sembra di capire da leggendo le cronache, semplicemente fa azioni plateali. Fa azioni plateali, scuoia di sangue pubblicamente davanti a tutti, lasciando tutti impietriti, nessuno può intervenire per difendere una persona nel bel mezzo della città e nell'ora di punta. A me aveva fatto impressione anni fa questo signore che prima stava con una per la sparita, poi stava con un'altra, la terza finalmente è riuscita a ammazzarla, ma l'ha ammazzata pubblicamente a Sanremo, mentre questa era alle 2:30 di pomeriggio di un giorno normalissimo, si stava recando al lavoro con un'amica, una collega. Sì, sì, ma io sono d'accordo. Sono anche dimostrazioni, no? Immagino, perché sennò non quanto il concorso di colpa può avere la donna. In generale, allora, così, che la donna sia cambiata in questi anni, che la donna sia cambiata non c'è dubbio, e mi viene da dire per fortuna, no? Ecco. Io non credo che la violenza sulle donne sia aumentata con i costumi più liberi della donna. Io credo che la violenza alle donne sia più denunciata adesso. Quando si parla di violenza alle donne, si parla di black number, numero scuro. Si dice. Perché? Perché è un numero nascosto, solo una piccola parte di violenza alle donne emerge. Però se noi andiamo a guardare quello che succedeva gli anni passati, le situazioni di bambine violentate o comunque abusate, le donne molestate sul lavoro, dai componenti anche della famiglia o da vicini, da amici, sono tantissime, però pochissime venivano una volta denunciate, un po' perché c'era questo senso della vergogna, del pudore, un po' perché la donna forse sopportava di più, proprio perché diceva beh, ma insomma è così, d'altronde lui può perché io sono donna, eccetera eccetera. Quindi io non credo che la liberalizzazione della donna, con la libertà dei costumi, abbia portato più violenze. Credo che ci siano anche prima e che siano più denunciate. Poi è vero che ci sono donne che hanno un modo di vestire sguaiato, è vero, che è brutto vederle, che dispiace anche a noi donne vedere come si buttano via, questo è verissimo. Però in genere non sono, come diceva giustamente lei, non sono quelle le donne, perché l'uomo stalker sceglie la sua vittima, non ne sceglie una che sa che gli può mettere i piedi in testa. Volevo dire un'altra cosa. È vero che c'è quella storia di quell'avvocato, l'avvocato donna che aveva rifiutato il collega avvocato di qualche mese fa e lui gli ha fatto buttare l'acido. No, volevo dire un'altra cosa. Qui si parla di violenza degli uomini sulle donne, ma secondo me in certi casi, ed è molto più subdola, c'è la violenza della donna sugli uomini. Violenza in senso psicologico. Anche questo è vero, però a parte che... è un'altra cosa, e mettiamola sul piano quanti uomini, quanti uomini vengono ammazzati dalla violenza psicologica della compagna. Infatti, allora la donna non si deve ammazzare, io so tra dei disturbi esistenziali che ti può provocare qualcuno e poi a un certo punto non mandi a quel paese, te ne vai da un'altra parte ed è finita, e invece uno che ti accoltella in piazza dopo mesi e mesi di persecuzione, oppure ti dà sempre una rata di botte e finisce l'ospedale. Non per niente la violenza alle donne è la maggior causa di morte, più del cancro delle donne. Ecco, è vero però che c'è un ambito in cui l'uomo subisce violenza di tipo psicologico, che è nella gestione dei figli di fronte alle separazioni. Questo è vero, io lo dico sempre. Lì quando si parla di affidamento dei figli e così, la donna basta che dica io sono mamma. e ha l'affidamento dei figli, tutte le visite che vuole. Sì, l'uomo deve dire: io sono un padre bravissimo, eccezionale, mi sono sempre, ho sempre seguito i miei bambini, d'altronde mia moglie invece non c'è mai, fa un brutto orario di lavoro, ha una screanziata, mi ha pure tradito con questo, questo, questo, questo, e allora forse i giudici gli affidano i bambini. Ecco, questo è vero. Però, ripeto, siamo pesi molto diversi, e poi comunque io vedo un uomo che all'interno di una famiglia si è comportato bene, anche nel momento della separazione le ritrova. È vero, cose, sì, sì. Le ritrova. Un'altra purtroppo spesso i padri capiscono di essere papà nel momento della separazione. Un'altra domanda le volevo fare. Nelle separazioni, la percentuale di chi chiede la separazione è la donna. È la donna. Il divorzio invece lo chiede l'uomo. Diciamo, molto amici che conosco, anche recentemente, che dice: non ce la faccio più. È gente di 70 anni, no? Quindi sopporta sì, sì. Un po'. Cioè, non, diciamo, siamo rimasti 50 anni assieme, madre e però ci sta anche questo, a un certo punto. Però dicevo, chi chiede la separazione? Che dice la separazione? È la donna, però. È la donna. Sì. Però è la un segnale che questo, non trovi? Sì, che le separazioni vanno avanti anche... Certo. Nell'età anagrafica adesso. Sì, sì, la donna non ci sta più. La donna ha portato avanti i compiti che si era prefissata di, di crescere i figli e poi dice, magari sopportando sì, anche delle cattiverie, delle violenze e anche dei tradimenti. Sì, sì. Poi è vero comunque che la situazione si sta anche evolvendo, perché io vedo anche tante donne che, forti di questo tipo di giudizio che c'è nei tribunali, alla prima occasione prendono i figli e dicono al marito: vai, tanto la casa rimane a me, tu mi paghi il mutuo e avanti. Non vorrei sembrare cinica, però secondo me una volta era proprio la biologia che ci salvava, no? Perché le donne si sposavano presto, poi facevano figli, facevano le serve per più guardi, secondo me. Da certi racconti che mi arrivano, era proprio un livello quasi di servitù, di sopportazione, però poi c'era come una nemesi, no? E la biologia ci aiutava. A un certo punto il marito moriva. E quindi poi ci sono tutte le nonne della mia generazione che si sono godute 20 anni e passa una pensione dignitosa e una pace incredibile. Dove sì, non avevano più da servire nessuno, se stavano in casa ed erano felici, cioè, e hanno anche pianto, sì, chiaramente osservato, la vedovanza, tutto quanto, però c'era questo, adesso non c'è più questo. La donna lavora, probabilmente a volte cioè, si massacra altrettanto come l'uomo, e quindi non c'è più questo range che ci difende biologicamente. Per quanto riguardava lei, perché ha fatto un intervento che mi piace molto e mi interessa, ma non so se c'entra o non c'entra, ma ogni tanto penso che effettivamente ha ragione. Cioè, a volte secondo me le donne hanno usato dei sistemi, o usano ancora in alcuni casi, dei sistemi un po' subdoli. Parlo di altre generazioni, probabilmente la nostra è quella che si scontra in questa maniera proprio perché non ha più filtri e dice e fa e prende iniziative e basta. Ecco, e l'uomo non è abituato. Mentre le nostre madri, e tornando indietro, o sopportavano o usavano altri sistemi di far fare delle cose, senza dirlo apertamente, ma girando intorno alla faccenda, e poi comunque l'uomo si trova a fare delle cose. Ecco. Questo è un artificio di sopravvivenza che probabilmente ti veniva insegnato o tu aspiravi per osmosi, ma era un artificio di sopravvivenza anche quello. Cioè, era un modo di sopravvivere nelle dinamiche, quindi siamo sempre lì, cioè lo scompenso c'era e oggi purtroppo c'è questo sistema che dovrà essere registrato, immagino, cioè dovrà comunque adattarsi e anche calibrarsi meglio, perché sta portando appunto a separazioni, violenze e tensioni in continuazione, bisognerà modulare. E forse le future generazioni lo impareranno, però in questo momento sicuramente è cambiata sì. La società, è cambiato sì. Il mondo, ma quelle signore, quelle mogli di un secolo fa, poi siamo vicini, ne ho incontrate, ne ho sentite, ne ho viste, che stanno lì tutta la vita, per carità. Ci sono i fortunati che mano nella mano, per carità. Sì. Però c'è una dipendenza anche economica che ha sempre obbligato la donna a restare lì buona e zitta, no? Sì. E questo dà fastidio adesso al maschio, perché la donna, quelli che possono e che vogliono, hanno la loro indipendenza, una loro professione, eccetera. E questa è una cosa che non viene digerita bene dall'altro sesso, è da dire. E da lì poi nascono anche le strumentalizzazioni coi figli, quella è la cosa terribile, tragica, tragica. Ma diceva sempre l'avvocato. Sì. Voglio chiedere, ma ci sono anche casi di stalking che partono da fraintendimenti? Da fraintendimenti di comportamenti, che magari una persona inizia a perseguitare qualcuno, un uomo, una donna, perché ha inteso magari degli atteggiamenti. Allora, questo, del fraintendimento è uno dei grossi argomenti che utilizzano gli avvocati per difendere il proprio cliente. Cioè, lei mi ha dato biada, mi ha istigato, mi ha lasciato, mi ha dato spazio, no? Infatti, quando si danno delle indicazioni su come reagire di fronte a questi presunti stalker, prima fra tutte è non rispondere, ecco. Non fare nulla, perché anche da un no, anche da un lasciami in pace, questi stalker prendono vita, prendono forza, ecco, mi ha risposto, ecco, vuol dire che allora ci riprovo, faccio. A volte aspettano un pochino questi stalker, poi ritornano, sono cambiato, ci rivediamo. Anche il rispondere no, non mi interessa, per loro è un riaprire un argine, no? Ecco. E quindi assolutamente non bisogna dare spazio, niente. Poi altro consiglio è quello di segnarsi tutto, perché col tempo poi le cose si dimenticano, e quando si fanno i processi hanno bisogno di prove, di cose certe. Quindi tenere sempre i messaggi. Tante volte vengono da me delle clienti che mi dicono: ma mi ha mandato un messaggio così brutto, l'ho cancellato subito. No, male. No. Tenerli, scaricarli, fare delle fotografie, tenere i biglietti, far vedere i biglietti ad altre persone che possono testimoniare: sì, quel giorno è arrivata e mi ha fatto vedere questo biglietto. Cambiare telefono se questi messaggi arrivano sempre sullo stesso telefono, sì, bene, ma tenere l'altro per acquisire delle prove poi da utilizzare, no? Ecco. Poi altra cosa, se si fa un percorso per andare al lavoro, cambiarlo, non fare sempre gli stessi percorsi, cambiarli proprio, le abitudini. Se si viene aggredito, ad esempio, dicono mai urlare aiuto, ma dire al fuoco. Sembra una sciocchezza, però è stato veramente verificato che di fronte a una situazione di richiesta d'aiuto, la gente, a meno che non ci siano dei gran coraggiosi, però scappa, ha paura, sì, non sì, interviene. Sì, sì. Invece di fronte al fuoco vengono tutti a vedere. Sì, è vero. Tutti i pompieri. E fa sorridere davvero, però è così. È vero. La signora vuole... Il fenomeno del bullismo che si riscontra addirittura dalle scuole elementari, può essere un po' un terreno anche che poi via via... Certo, sì, anche quelli sono degli atteggiamenti di prevaricazione, no? Quindi non va sottovalutato. No, assolutamente. Infatti, infatti quelli avvengono generalmente nelle scuole, negli oratori, negli ambienti, nelle palestre, appunto. No, assolutamente sono delle valvole di campanelli d'allarme. Questa mancanza di rispetto di certo. E a volte mi sembra che anche certe amicizie non hanno sempre un andamento nel tempo di pieno rispetto, perché magari una personalità più forte può prevalere sull'altra, cioè sono fenomeni un po' complessi, vero? Certamente. Certo. I valori, signora, i valori che si sono persi, che continuiamo a perdere. a tutti i livelli di società, sì, purtroppo. Sono molto, sono peggio. Nessuno li sa più comunicare, insegnare. C'era questo. Una signora che voleva fare dire, poi, laggiù c'era un'altra signora che cercava. Rispetto a quello che diceva prima, come si, un attimo fa, come si concretizza? Non lascia spazio con la parola, cioè quando il partner, lo stalker, insiste per rivedere, mai dire no, assolutamente no. No, no, bisogna dire un no secco e basta. Dopo si tira, si chiude, si tira sul muro, no? Ah, non essere possibilisti. Non essere possibilisti. Assolutamente, poi dipende anche se una può avere dei dubbi, è chiaro che insomma ha dei dubbi, ma nel momento in cui si capisce che quella persona non mi sta cercando per chiarire, ma sta passando il limite, mi sta stalkerizzando, allora a quel punto bisogna davvero porre un freno. E anche un no detto è un'apertura. Eh sì. Noi ci auguriamo comunque. È un'apertura. È un'apertura, anche quello. Ho capito che il no secco può innescare il meccanismo della rivalsa, della vendetta. È vero, ma è chiaro, perché è quello, c'è il no e poi c'è parte tutta la. Però, poi, oddio, è chiaro che ci sono gli stalker malati, perché sono vari tipi di stalker, hanno fatto proprio delle categorie. Lo stalker comune, quindi non quello malato proprio, psicotico, ma lo stalker comune, quello che va avanti per questo concetto di prevaricazione, di possesso, questo ha bisogno di non trovare terreno fertile. Quindi nel momento in cui gli si dice la nostra storia è finita, guarda, ho chiesto la separazione, tratteremo tra avvocati, oppure ti lascio perché la nostra storia è proprio finita, poi questo continua, no ti prego vediamoci, ho bisogno di parlarti, vediamoci, quando si capisce, è chiaro che bisogna drizzare le antenne, ma quando si capisce che questa persona sta passando il segno, basta, si chiude. E tantomeno vediamoci l'ultima volta. Guai, siamo insieme un'ultima volta. Guai. La donna di questo libro c'è caduta più volte in questo giochetto. Ti voglio vedere l'ultima volta, ti voglio dire un ultimo addio e poi ti lascio in pace. Sì. E allora lei stanchissima andava e si trovavano. Sì. E lui si ringalluzziva in questi incontri. Certo. Posso dire, non so se c'è, ma una cosa positiva sulla situazione negativa, che è abbastanza negativa. Mi è successo stamattina, a me ha impressionato moltissimo. Io molti anni fa ero insegnante, ho insegnato nella prima ed unica scuola Zingari in Italia riconosciuta dallo Stato. Stamattina ho incontrato, l'ho vista da lontano, credo che sia una di quelle zingare. E 50 anni che non la vedevo mai più. L'ho chiamata ed era veramente lei. Si è girata contentissima, mi ha abbracciato e tutto. Ah, va bene. Sì, ciao, come stai? Non mi ha detto una parola di lamentele, che sono tutti lamentele, la lista delle lamentele. Aveva con sé due giovanotti e io le ho detto, e questi chi sono? E lei mi ha risposto, è l'ultimo regalo che mi ha fatto mio marito prima di morire. Mi è sembrato veramente il positivo di tante situazioni negative. Altri 10 figli mi ha detto, ma l'ultimo regalo del marito. Si vede che lì c'era proprio una bella intesa. Poi ci auguriamo, Annelise, che nessuna di queste signore abbia mai subito. No, infatti, ma il problema è che chi viene a queste questi momenti è in genere chi meno ne ha bisogno. È così, no? Ecco. Però magari quella della porta accanto, sì. Sì, forse è vero. Avere un po' più di occhio. Di occhio, dare una mano, un caffè. Ma io mi ricordo una volta insegnavo, prima di lavorare nelle biblioteche, e ero anche giovane, insomma, 25-26 anni, le prime esperienze professionali, figuriamoci se mai mi passa per l'anticamera del cervello che una donna può prendersi delle botte dal proprio compagno, no? Poi sei anche in quella fase molto romantica della vita. E quindi arriva a udienza da me una signora con gli occhiali, con un livido, con un fazzoletto anche se era caldo, e così io la guardo e dico, mi sta trasmettendo qualcosa di strano, no? Ma non riuscivo minimamente della mia ingenuità a cogliere di che cosa si trattasse, no? Però questa voce un po' così, insomma. E poi la prima cosa che ho pensato sarà sicuramente malata, questa signora. Dopodiché, dopo una settimana, la rivedo e quello che mi era sembrato strano è che il libido fosse da un'altra parte. Il libido era dall'altra parte la settimana successiva e lì mi si è accesa una lampadina. Io non avevo rapporti con questa persona se non che era venuta una volta solo a chiedermi un resoconto della figlia. E mi ricordo era sempre che mi sono fermata a pensare e ho detto, signora, cos'è che non va? Cioè, lì non ha avuto il coraggio di dirmi niente, mi ha detto tutto a posto, non si preoccupi. Però poi parlando con i colleghi era emerso che insomma era una situazione già a conoscenza della scuola e dove pare che il preside si fosse anche già mosso. Però non è così facile realizzare Non è neanche facile intervenire. No, assolutamente. Perché sono argomenti delicati. Sì. Soprattutto la scuola che interviene, io vedo queste donne, la prima cosa che pensano è oddio, informano i servizi sociali e mi portano via i bambini. La prima cosa che pensano. Ecco. E allora anche lì bisogna trovare le parole giuste. Non magari la domanda diretta, ma a 25 anni uno si beve uno spavento, perché certo, non è chiaro. Un occhio non c'è, non è semplice, non è semplice. No. Però magari dire guardi, lei scelga quello che vuole della sua vita, ma se vuole aiutare davvero il suo bambino, vada in questo centro e dargli il biglietto. Sì. Senza, sì, poi sì, se sì, vuole io ci sono per parlarne, ma sì. Vero, dovrebbe. No? Poi insomma ognuno ha gli strumenti, mamma mia, siamo esseri umani, a volte basta anche uno sguardo, ma a volte basta anche un caffè dove non si parla di quel problema. Sì. Però questa persona poi si sente meno sola e poi magari col tempo è questa persona che si apre, perché la maggior parte delle, io vedo delle clienti che subiscono violenza, vengono e una delle cose che più mi dicono è sono sola. È vero, sì, perché si isolano praticamente, sono isolate, sono sole veramente. Io anche avevo conosciuto anni fa, non era un'amica, ero più amica della sorella, diciamo. La incontro per strada in piazza stazione con un livido e la saluto e mi fa, ma sì, sono caduta dal marciapiede, mi ha detto, no? Questa aveva la sfinza di sorelle e anche fratelli, non sono potuti intervenire, forse all'epoca non c'era neanche le leggi di cui parlava, è finita malissimo, sia da parte di lei che da parte di lui, però la pestava. Mamma mia. D'altronde non è facile per queste donne che quest'uomo l'hanno scelto, perché è comunque un fallimento anche personale, esatto. Quindi non è facile. Bisogna lavorare molto sulle donne anche, oltre che sugli uomini, non c'è dubbio. Adesso molte città si fanno dei percorsi di ravvedimento dello stalker. Dei percorsi di autoconsapevolezza, di supporto psicologico, che chiaramente non possono essere imposti a queste persone, però sono arrivati al punto che nei tribunali l'aver seguito questo corso percorso dà diritto ad ottenere le attenuanti generiche, quindi degli sconti di pena. Ah, ecco. È un po' quello che succede con i corsi per le guide in stato di ebbrezza, no? Che fanno ottenere prima la patente. Ecco, e allora queste persone frequentano questi corsi. Ma non lo so, lo frequentano perché è chiaro, perché l'avvocato gli dice, oh, qui se non vuoi finire in carcere con un reato, con una pena superiore ai 3 anni, perché sopra i 3 anni si va in carcere, dobbiamo avere le attenuanti generiche. Oltre attenuanti generiche dobbiamo avere questa attenuante qua. Vai e fatti questo corso. Allora sicuramente tanti di questi uomini vanno, ascoltano e pian piano. Gli entra di qua e gli esce di qua. Però magari un pochino, Poi è chiaro che dipende dalla capacità di questi operatori, no? Però è già un qualche cosa. Un seme. A Rovereto, ad esempio, c'è uno di questi corsi che sta lavorando molto bene. C'è anche il dottor Morione che stava accennando alla tipologia di disturbo. Sì. Ma ecco, in questo senso sono prevalentemente persone con una violenza intrinseca o sono più probabilmente persone con delle grosse problematiche interiori, anche di accettazione di se stessi, di insicurezza, che quindi cercano di sfogare in questo ambito? È chiaro, perché se uno non ha queste insicurezze, questo senso gli manca il senso del libero arbitrio corretto. Scarsità di orgoglio personale, diciamo, perché a un certo punto sì, questa cultura, no? Se non ha questa cultura, è chiaro che non diventerà uno stalker, ecco. Poi ci sono quelli malati proprio, psicotici, sì, ecco. Però generalmente le categorie che fanno sono queste, cioè il ragazzo, l'uomo viziato, sì. L'uomo invece figlio di una situazione di violenza, quindi che ha assistito una violenza, magari l'ha subita anche lui, è cresciuto credendo che questo sia il modo giusto, corretto di andare avanti e di portare avanti le sue relazioni affettive. E poi c'è quello educato male, che è cresciuto pensando che tutto gli sia dovuto, senza il concetto proprio del rispetto dell'altro. Quindi, secondo me, la figura del papà nel confronto del figlio maschio deve essere molto importante. Sì. Anche della figlia femmina. Anche della figlia. Sì. Perché queste ragazze, che ci sono ultimamente, tante ragazze, ultimamente, tipo quello che raccontavo prima, non sono state educate al rispetto di se stessi, perché io penso che anche uno stalker non rispetta se stesso. Non rispetta l'altro, ma neanche se stesso, perché dà di sé una brutta immagine. Non hai dignità stare lì. E alla fine rimane solo. Certo, la figura paterna secondo me è importantissima, non c'è dubbio, come la figura materna. Infatti adesso, per parlare di tutt'altro, ma quando mi dicono se io meno d'accordo alle adozioni da parte delle coppie omosessuali, io, pur essendo perfettamente, pienamente d'accordo al riconoscimento delle unioni omosessuali e quindi a tutta una disciplina giuridica che è giusto che abbiano, però sulle adozioni io credo nel principio della bigenitorialità. Un bambino cresce con un papà e con una mamma. Poi può essere un bambino sfortunato che magari perde il papà, perde la mamma, o magari è una ragazza madre, o magari è un padre che lo prende da solo questo bambino e la mamma non si vede più. Però la regola che mi piacerebbe è quella della bigenitorialità. Sì, questo è vero, questo è vero. Lascia qualche perplessità. Lascia proprio delle perplessità al fatto dell'adozione. Poi dicono che questi bambini crescono così bene, però allora mi devono chi è competente, perché rispetto a questa materia io non ho le competenze, perché ho studiato tutt'altro. Chi è competente fino a ieri mi ha parlato di bigenitorialità, di diritto di affidamento condiviso, mi deve ribaltare tutto questo. Certo, al momento non lo vedo questo ribaltamento. No, quella non è più competente di lei. Io sono mamma e vedo, ho la grande fortuna di avere accanto un uomo bravo, buono, corretto, che porta avanti il suo ruolo, che è un bravissimo papà, ecco. E quindi credo che davvero sia importante moltissimo la figura del papà. Abbiamo una legge bellissima che è quella sui congedi parentali, ad esempio, no? Viene usata ancora molto poco e anche questo è un problema culturale, perché questi uomini che vanno in fabbrica o all'azienda o i grossi manager e chiedono di poter rimanere a casa e seguire i loro figli, vengono chiamati derisi, il mammo, no? Sì. Oppure addirittura subiscono delle situazioni di mobbing come le donne. È vero, sì, questo è molto, molto. Ma ci sono stati casi di denuncia anche da parte di uomini? Sì, sì, sì, certo. Sì, sì. E ce ne sono. Come sono andate a finire? Beh, noi in Trentino abbiamo anche il caso di una donna che ha ucciso un uomo, il marito. Diciamo, ecco. Sì, sono veramente, come si dice, l'eccezione che conferma la regola, no? Ecco, però anche lì sono finiti e anche lì la cultura è così forte che questi uomini non vengono creduti. Sì, anche perché una missione di debolezza, no? Perché sì, dicono: ma no, ma va là, ma tu che sei un uomo, ti fai mettere il piede, ti fai picchiare. Io ho un marito che difendo che viene pestato dalla moglie, lei tirava i piatti davanti ai bambini. Ecco, quando io l'ho portata questa cosa in tribunale, e io l'ho visto il sorrisetto nel giudice, perché. Perché la cultura è forte. Davanti ad altri, come davanti sì. Ai figli, gli altri bambini. La mamma? Veniva pestato? Ma indifferentemente, quando lei si arrabbiava, scagliava quello che aveva, calci, le faceva, la graffiava. Una volta è venuto da me e aveva dei graffi qua. Ah, però. È stata condannata? Sì, sì, sì, è stata condannata, lei ha patteggiato, sì. Però, ecco, si è portati a sorridere di questa cosa, sì, no? Sì, sì. Una che patteggia così, cosa dice? Perché? Perché è talmente forte la cultura maschilista, sì, che non si accetta che la cultura di un uomo possa però sono veramente dei casi isolati, queste isolati. Pochi sono, credo però che saranno in aumento perché la società sta cambiando e la donna non ci sta più, però ci sono anche delle differenze biologiche perché la donna ha, cioè, parte certe donne, però comunque ha una forza minore, no? Poi, insomma, la donna quando ad esempio è in stato di gravidanza è sicuramente più debole e tante donne subiscono violenza durante la gravidanza, tantissime, perché questi uomini malati del possesso approfittano anche della debolezza della vittima e quindi colpiscono quando la donna non ha il lavoro, quando la donna è in casa da sola, quando è in stato di gravidanza. Sì, sì, sì. C'è nulla da fare per migliorarsi. Noi continuiamo a parlarne, sì, a farne, in particolare tu ovviamente, io nel mio piccolo anche, perché sento spesso delle storie di questo genere. No, ma parla, come sento anche spesso la donna che in caso di separazione di matrimonio ho fallito. Dico, non hai fallito, prima di tutto siete in due, prima. Certo. Poi andiamo a vedere il 50 e il 50 da che parte pensi. Sì, c'è questo concetto di colpa nella donna, istintivo, e questo è terribile. Questo se lo deve levare proprio da addosso. C'è un grande lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. E pensa che mi diceva un nostro conoscente negli Stati Uniti, che è anche un medico, un professore, che parlando nei famosi party americani prendeva in giro perché diceva: voi italiani vi tirate addosso tutte le colpe, sapete perché? Perché vi hanno detto che c'è il peccato originale. Ah sì, dico, ah ok, faceva questo discorso. Veramente, io sono rimasta lì e dico, sai che pensarci bene può anche darsi. Si divertiva da matti dicendo, sì sì, voi in Italia siete tutti pieni di colpe. E adesso si apre un capitolo. Non abbiamo parlato di colpe. Adesso si apre un capitolo. È vero, però è anche vero che la violenza alle donne e la prevaricazione c'è ancora molto prima della religione. Sono cose antichissime. Io credo perché la vita durava molto meno una volta, e una volta se si arrivava a 40 anni era tanto. E la donna era fertile molto prima. Ai 9 anni la donna era già fertile, leggevo, e quindi bene o male la vita della donna era legata sempre a queste gravidanze, figli, allattamento, gravidanze, figli, allattamento. O morivano di parto o morivano qualche anno dopo aver partorito l'ultimo figlio, Per cui gioco forza, chiaro che chi doveva andare a fare a cacciare, chi doveva pensare al sostentamento era l'uomo, quindi i ruoli erano molto definiti una volta. Poi la società è cambiata. Poi una volta parlavo con un'antropologa, mi raccontava questa storia che l'ho trovata molto interessante. Col tempo poi è intervenuto il diritto ereditario. Cioè l'uomo si è fatto più stanziale, è cominciato a essere proprietario di tutto. E a quel punto, quando costruiva qualcosa, si arricchiva un proprio patrimonio, ci teneva che a lasciarlo, che poi a goderne fosse sangue del suo sangue, il suo figlio. E allora doveva controllare la donna. Quindi nascono le cinture di castità. Tutte quelle attività volte a creare dolore nella donna se compieva un atto sessuale, quindi fibulazioni, tutti quei comportamenti lì, volti proprio ad un controllo sulle nascite. Se noi pensiamo all'epoca delle streghe, in cui venivano bruciate delle streghe, chi erano queste streghe? Erano delle donne che avevano delle conoscenze particolari e potevano anche intervenire, ad esempio, sulla maternità. Eh sì. E avevo sentito questa antropologa bravissima di Bolzano, mi ricordo. Ah. Sì. Roberta Osso. Sì, l'ho sentita. Ah, l'osso? L'osso? O osso? Roberta Osso, ecco qua un libro. L'ho appena letto. Appena letto il nome. Ah sì, perché mi ha messo fuori un po' di titoli. E lei ha fatto veramente degli studi molto interessanti su questo. Anche legati alle streghe, oppure legati anche alla prostituzione, al fenomeno della prostituzione. Sì. E mi ricordo di aver seguito con lei avevamo fatto proprio una serata insieme dove io facevo chiaramente la parte giuridica dei diritti, dell'evoluzione dei diritti delle donne, e lei aveva fatto invece questa parte storica. Bello, era stato interessante. Bello, molto interessante. Interessante questo collegamento. Allora, se non ci sono altre domande o interventi, io ringrazio le nostre due ospiti, grazie, è stato veramente molto utile e interessante. Continuate, vi seguiamo. Sempre. Grazie. Grazie a voi.